al sussurro e il destino. Simone Pizzi guida il cammino con occhi da matto senza confini. Un viaggio di parole, un incontro genuino, nel cuore della vita, nel suo intimo, rincorrersi. Ah, belli di casa, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Grande Reset, come tutti i venerdì mattina alle ore 7 qui su runtimeradio.it, la radio abbastanza pirata e nascosta da poter sopravvivere fin quando qualcuno non si accorge che esistiamo anche noi. E questo ovviamente è il terrore con il quale viviamo tutti i sacrosanti giorni, ma chi se ne frega, perché poi in realtà tutti ci incentivano, ci stimolano a fregarcene di questa particolare cosa. Ma poi vi spiego, insomma, perché adesso ne parliamo di questo fatto, di cose che stanno succedendo divertenti e un po' meno divertenti. Nel frattempo vi ricordo che è uscito Snap Architettura Imperfetta, che presto ci sarà un nuovo podcast che entrerà a far parte della nuova, della grande famiglia di Runtime Radio, un podcast che esiste parallelamente già da tanto tempo, ma che evidentemente poi ha riflettuto, anzi due podcast che stanno per entrare nella grande famiglia di Runtime Radio. E che questa sera, ragazzi, c'è l'ultima puntata di stagione di Runtime by Night. Per l'occasione ci saranno vari member della radio, e insomma, quindi mi fa piacere. E anche altri che vogliono magari unirsi, basta che me lo dicono. Stasera facciamo una sorta di festicciola di fine stagione su runtimeradio.it alle ore 22:30, come tutte le sacrosante volte. E questa è la settimana, anzi sono le settimane della musica artificiale. Ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando. Se seguite un po' il feed del canale broadcast di Runtime Radio su Telegram, quindi andate su Telegram, scrivete Runtime Radio e troverete ovviamente questo canale monodirezionale dove noi intanto spammiamo le cose che succedono sulla radio, se ci sono delle live o se sono usciti dei podcast. Non è particolarmente invasivo, quindi lo potete tranquillamente tenere lì. E se invece volete interagire con noi, sempre telegram.me/dirette runtime, è la nostra chat pubblica dove potete tranquillamente venire in qualsiasi momento. Però ricordatevi sempre di dire subito ciao, sono io vivo, perché sennò io do l'ordine a Walter Sbano di cacciarvi e lui vi caccia. Insomma, è una chat che funziona sempre anche quando non ci sono live, e questo significa che bene o male qualcuno con cui chiacchierare in un momento in cui magari avete voglia di chiacchierare con qualcuno ce lo trovate senza meno, insomma. Quindi questo è una cosa che ci fa molto molto piacere. Quindi seguendo comunque i nostri canali, appunto, sapete che noi stiamo facendo questo festival della musica artificiale. È una cosa che è nata così, goliardicamente, ma adesso vi racconto tutto. Però mi è venuto in mente di fare questo piccolo esperimento. Adesso starete per inorridire tutti, io lo so, però ragazzi, se seguite questa trasmissione dovete prendere il bello e il brutto della trasmissione, quindi le sperimentazioni positive e le sperimentazioni negative. Perché proprio parlando di canzoni di intelligenza artificiale, io ho preso un testo storico, tra l'altro di una canzone alla quale sono molto legato, e gli ho detto all'intelligenza artificiale di rifarla in un'altra maniera. Vediamo che cosa è uscito fuori. Sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, ho sete, sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno. ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete o fame. E fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra di un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un affensino. Ma l'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Allora, questa è la versione rifatta del Pescatore di Fabrizio De André, che avrete sicuramente riconosciuto tutti quanti, e voglio dire delle cose, fare delle piccole precisazioni. Prima di tutto, Fabrizio De André è un cantante al quale sono legato tantissimo, così come Francesco De Gregori, ma devo aggiungere anche che, sebbene quel tipo di musica, di quel tipo di ballad del cantautorato italiano dell'epoca magari non fosse così articolato musicalmente, devo dire che quelle sonorità, quella voce comunque avevano una potenza veramente incredibile. Ma la cosa straordinaria di una canzone come Il Pescatore è l'impatto del testo, perché questo testo, se tu lo prendi e lo metti in una canzone così, cioè, adesso lasciamo perdere ovviamente il valore artistico della parte musicale, no? Ma anche a reinterpretarla magari in una maniera diversa, come una ballad rock, come una canzone hard rock, cioè la potenza di questo testo è veramente incredibile. E questo ci dice quanto comunque il testo per alcuni tipi di canzoni è una parte fondamentale, forse quasi il 50% del valore della canzone stessa. Ma perché abbiamo fatto questa cosa? Abbiamo fatto questa cosa perché voglio un po' ricostruire quello che sta succedendo negli ultimi giorni in Runtime Radio, anche se molti di voi magari lo sanno già, lo stanno seguendo e via dicendo, però ci tengo un po' perché noi in questi 12 anni siamo passati per stupidaggini e idee geniali, secondo me. E alla fine, comunque, anche se l'idea di per sé non era iper geniale, comunque il fatto che tu l'hai fatta è un po' come il discorso che si diceva tra Steve Jobs e uno che magari aveva avuto l'idea migliore di Steve Jobs. Sì, però Steve Jobs l'ha fatta, no? L'ha venduta tanto la cosa, no? E non che io sia un fan di Steve Jobs, ovviamente, però insomma questo è un po' quello che succede. Intanto da adesso in poi non si sa perché dovremo mettere il cane fuori di casa fin quando faremo le live, perché è diventato sistematico. Comunque, cosa sta succedendo? Sta succedendo che dai tempi di Sanremo, quindi da quando c'è stato a febbraio il Festival di Sanremo, noi avevamo pensato di fare una cosa alternativa, un po' come facciamo con Euroludica, no? Quindi quando ci sono i mondiali o i campionati europei di calcio, noi ci mettiamo lì e facciamo la trasmissione alternativa. Poi non abbiamo avuto forse il tempo, la forza, magari anche l'energia di organizzarla questa cosa, avevamo pensato di fare una cosa con le canzoni artificiali, perché io e Marco sono oramai 8 mesi, forse anche di più, che smanettiamo in maniera costante con questo sistema generativo delle canzoni. Però anche lì la cosa insomma non c'è riuscita, non siamo riusciti a incastrare i tempi e va bene, però l'idea c'era rimasta nel tempo, tant'è che abbiamo detto facciamolo, volevamo fare una puntata OGM speciale proprio su questa cosa qui, però ancora ci siamo un po' trascinati e a un certo punto abbiamo detto vabbè, ma famo sto comunicato, senza nessuna pretesa o senza nessuna aspettativa. Comunque avevamo una quindicina di canzoni anche noi, alle girare brutte facevamo una cosa un po' fake, buttavamo dentro un po' di roba e via dicendo. E quindi è nato ovviamente quello che è il Festival della Canzone Artificiale 2024, che state ascoltando, anzi che avete ascoltato mercoledì come semifinale numero 1, mercoledì 17 ascolterete come semifinale numero 2 e mercoledì 24 ascolterete come finalissima con le 6 canzoni selezionate dalle 2 eliminatorie ovviamente. E non ci aspettavamo, devo dire la verità, un particolare feedback, perché sebbene per fare diciamo le canzoni con l'intelligenza artificiale sono due tool principali, uno è Suno e l'altro Udio, che restituiscono comunque un feedback, un risultato positivo, però mentre che uno è più immediato, no? Cioè tu comunque gli dai le istruzioni, dai il testo, poi il resto più o meno lo fa lui. Con l'altro strumento, diciamo, con Udio è più articolato, devi lavorare la canzone segmento per segmento, 33 secondi per 33 secondi e via dicendo. Quindi abbiamo detto, vabbè, pur essendoci uno strumento come Suno, che alla fine, proprio se proprio non te vade fa niente, vai lì sul prompt e dici scrivimi una canzone heavy metal sulla morte delle pecore, e quello ti fa la canzone, tu hai comunque partecipato. Diciamo che quando tu chiedi poi alla fine alle persone di essere attive nel fare qualcosa, anche se non devono veramente mettere mano a delle capacità che magari non hanno, e non sempre hai un feedback positivo, perché insomma la gente gli piace stare lì, ascoltare, fare cose, magari ridere con... però il fatto di diventare attivi, che poi è una cosa che noi abbiamo sempre cercato di fare, no? nella nostra storia, no? In qualche maniera, e non sempre c'è questo feedback positivo. Invece in questo caso, devo dire la verità, ci sono arrivate delle canzoni, non solo ci sono arrivate delle canzoni, l'altra sera con Marco alla fine della prima semifinale siamo rimasti un po' a chiacchierare, ed essendo rimaste fuori delle canzoni ovviamente che sono arrivate poi successivamente, abbiamo già poco, ma abbiamo già del materiale per una eventuale seconda edizione di questo Festival della Canzone Artificiale, che noi l'abbiamo fatta partire come una cavolata, però abbiamo visto che la gente ci si è appassionata, tant'è che ieri, e questo è una cosa che mi ha divertito molto, anche se magari alcuni risultati me li aspettavo diversi, no? A un certo punto di vista, non solo c'è stata una partecipazione incredibile nel voto, che sarà aperto ovviamente fino a mercoledì prossimo, se andate ovviamente su Dirette Runtime, anzi se andate sul canale broadcast Runtime Radio su Telegram, scorrete un po' in alto, lo trovate il sondaggio, poi lo riposteremo in generale, in modo da dare sempre la possibilità. Ma comunque non solo c'è stato un risultato che magari ancora non ci aspettavamo diverso, no? Però va bene, ma c'è stata anche una grandissima partecipazione, in più anche alcuni che scrivevano facendo endorsement a un brano piuttosto che un altro, altri che facevano il tifo per se stessi, insomma devo dire che il movimento, l'idea comunque questa cosa l'ha creata, perché ha creato una competizione su un risultato che dobbiamo dire oggettivamente. Poi è chiaro che dando il giusto valore e la giusta proporzione alla cosa, molti risultati sono anche decenti, se non alcuni anche positivi. Cioè io devo dire, ci sono delle canzoni, due o tre su questa prima semifinale che io l'ascolterei tranquillamente tutta l'estate, cioè senza nessunissimo problema. Altre chiaramente di valore assolutamente inferiore, così come è giusto che sia. Però devo dire che chi ci ha lavorato di più e chi partiva da una base anche creativa, artistica, magari di primo livello, ma o di livello superiore, comunque il prodotto che è uscito fuori o che esce fuori è comunque un prodotto soddisfacente. Poi ascolterete anche mercoledì prossimo la seconda semifinale e vi renderete conto che ci sono altrettanti brani che possono mettere in difficoltà nel votare chi preferiamo piuttosto che chi non preferiamo, insomma. Comunque, la cosa che ci è piaciuta tantissimo è il fatto che si è creata poi ovviamente questa iniziativa ha creato movimento.

è convinto. E vabbè, questa me la sono scordata di tagliarla. Comunque, le storie di ieri, Francesco, sì, Fabrizio De André, sempre ovviamente una canzone alla quale sono iper legato. Io questa canzone l'ho adorata nella versione originale, ovviamente, e anche qui la dimostrazione che la potenza di un testo ti dice che questi artisti, questa gente non c'è proprio più, cioè, non solo perché è morto e non c'è più, ma non c'è proprio più niente, cioè, ragazzi, non c'è veramente più niente. Comunque, forse l'esperimento è meno riuscito rispetto a quella di prima, però comunque la metrica della canzone la porta a diventare una ballad, comunque in alcuni tratti addirittura assomiglia anche alla canzone originale, e questo ti fa capire anche quanto poi, secondo me, scavi molto, no, nel repertorio musicale. Comunque, torniamo un attimo a noi. Intanto salutiamo Mr. Zero, Morgan, Walter, Michela e Vincent Valentine, che sono, insomma, dice giustamente Vincent, dai che è venerdì, e Walter dice che non sembrava neanche fatta l'intelligenza artificiale perché non si è mangiata nessuna parola. No, devo dire che su uno nella versione 3.5 e a pagamento c'è la versione 4.0, che quando uscirà ovviamente la versione 4.5 diventerà gratis la 4.0. devo dire che il livello io da questo punto di vista l'abbiamo osservato con Marco in 12 mesi, la potenza di questa roba è quintuplicata, cioè non è raddoppiata. Cioè, secondo me, noi siamo partiti da fare sperimentazioni lo scorso anno con i generatori di musica artificiale, ve lo ricorderete, abbiamo fatto degli esperimenti anche Runtime by Night, che era terribile, ragazzi, quello che usciva fuori, veramente terribile. In 12 mesi da quel punto di vista il mondo è cambiato, cioè proprio completamente cambiato, e tra gli errori, sbavature di pronuncia, gli errori di canti da parte del cantato, o comunque oggi comunque ti escono fuori, noi stiamo facendo una roba orchestrale, ti esce appunto della roba orchestrale con una struttura, con dei livelli incredibili dal punto di vista proprio della produzione musicale. Poi lo senti ancora che è un suono artificiale, cioè nel senso ancora c'è molto da fare da un certo punto di vista. Però quello che è successo durante questi giorni, pochi giorni, è che se quando ne parlavo all'inizio anche con amici miei musicisti, via dicendo, no, ma io un certo tempo, poi sì, è interessante, però vabbè, no, giustamente, io sono assolutamente d'accordo. Poi alla fine che è successo? È successo che alla fine hanno partecipato tutti, e questa è una cosa che alla fine c'è stato l'incuriosimento, e devo dire che ancora sono arrivate, pure questa mattina sono arrivate delle mail con delle canzoni, mail alle quali dovrò rispondere dicendo che purtroppo la canzone è arrivata tardi e che magari alla prossima edizione loro stanno già in prima fila per poter partecipare alla prossima edizione di questa cosa. Però diciamo che in particolare da mercoledì, dalla prima puntata live che abbiamo fatto, ho avuto tantissimi contatti, devo dire, link che si sono accesi con persone, messaggi, mail che sono arrivate, persone che prima inizialmente guardavano sta cosa, però poi alla fine, ma lo sai, interessante, fino a ieri ovviamente che mi contatta il buon Carlo e mi dice, ah, ma sta cosa lo sai, c'è avuto una risonanza qui nelle gallerie d'arte, adesso non si parla di altro perché tu sei stato il primo, hai fatto questa cosa, bisogna scriverne dappertutto, bisogna fare degli articoli, dobbiamo intervistarlo perché un giorno in cui Radio DJ farà questa cosa, qualcuno potrà dire, ma Runtime Radio l'ha fatta per primo, no? E questo, questa attenzione che mi è arrivata, comunque, in qualche maniera ha dato a questa idea stupida che noi abbiamo fatto per giocare una dimensione completamente diversa. Cioè io non veramente, tante cose in cui mi incenso e mi lodo e mi sbrodo, perché insomma sapete che sono una persona umile, ma fino a un certo punto, no? In questo caso non ci avevo proprio minimamente fatto caso, e l'ho fatta proprio per dare un boost al finale di stagione della Runtime Radio, per stare lì, giocare insieme, divertirci, no? Però devo dire la verità, quando uno dice, ma se poi un giorno domani, cosa che è successa decine di, Michela lo può testimoniare, cosa che è successa decine e decine di volte nella nostra vita, che noi abbiamo fatto delle iniziative, delle cose, e poi dopo un mese te le ritrovavi nel podcast più blasonato o nella trasmissione radio di qua o piuttosto che di là, molte volte sarà stato un caso, però sai, non può essere sempre un caso, no? Cioè, questo è. Quindi poi alla fine comunque mi ha fatto piacere da una parte, mi ha fatto riflettere dall'altra sul fatto che giustamente, cioè, vabbè, in effetti magari siamo stati veramente i primi a fare questa cosa, che per quanto giocosa o stupida sia, è comunque una sperimentazione interessante, magari a qualcuno può interessare. E lì ovviamente poi a me mi si sono accesi tutta una serie di allarmi, no? Perché cioè noi comunque, al di là del core podcast, che per noi è la cosa principale, quindi noi ci consideriamo editori di podcast da 12 anni. La web radio, diciamo che è un compendio che abbiamo lì, che perché ci piace venire in radio e parlare, fare le live, interagire con gli altri, ci piace proprio il sogno della radio che ci avevamo magari negli anni 90, no? In qualche maniera. Però la nostra è una radio pirata, fa cose che non dovrebbe fare e tante cose, insomma, no? E quindi vive nel sommerso, volutamente vive nel sommerso, anche se, come abbiamo detto anche due puntate fa, sulla puntata del Grande Reset, l'ultima puntata del Grande Reset, quella insomma originale, e che mi avete dato tanti feedback, del quale vi ringrazio oggettivamente, con Marco, con Michela, tante volte ci siamo posti il problema di dire vabbè, ma a sta cosa damogli un senso, no? Perché se non gli diamo un senso, a un certo punto dovremmo anche chiudere la baracca, nel senso, noi possiamo continuare a dedicare tempo alla nostra vita a una cosa che sì, è stato un gioco, ci siamo divertiti, bello, bello, tutto bello, però poi chiaramente arriva un momento in cui a sta cosa gli devi dare un senso, perché se non gli dai un senso, soprattutto oramai con l'esperienza acquisita, perché era una cosa che avremmo dovuto fare 6 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa, però va bene, lasciamo perdere, magari siamo fatti prendere dall'assismo, no? E quindi c'è questa spaccatura, no? Cioè, c'è Runtime Radio che da una parte sta con la schiena sotto la sabbia, striscia silenziosa, perché dicevo qui, oh zitti zitti che è tutta sta gente, andatevi tutti a fanculo, e dall'altra c'è l'esigenza di iniziare a portare delle produzioni, dei prodotti che possano essere competitivi o portare comunque anche delle entrate economiche, che non sta a parlare di fare le entrate che fanno magari i podcast più blasonati, ma fare delle entrate, fare dei prodotti che abbiano una distribuzione allo stesso tempo anche un'entrata, anche piccola, ma che giustifichi il fatto che tu ci perdi tempo su sta roba, no? Quindi diciamo che l'attenzione, il fatto che se ne vuole parlare di questa cosa del festival della canzone artificiale, che magari vogliono farci un'intervista, che magari qualcuno ne vuole parlare, poi tra l'altro stanotte stesso poi Carlo mi ha ricontattato, dobbiamo fare un feed con solo le cose dedicate al festival della canzone artificiale, dove mettere le puntate quando escono e tutte le canzoni una per una separate, in modo che tutti possono sempre consultare le canzoni se le vogliono risentire. Ho detto sì, ma noi poi volevamo fare una ISO. Dice sì, ma quello lo faremo dopo, adesso questo serve per... Vabbè, comunque l'ho fatto, gli ho detto Carlo, cioè l'avevo già fatto, è già pronto, tant'è che ovviamente la puntata è già pubblicata. A Walter e Puccio gli ho detto ragazzi, mettete il feed nel bot, così quando escono le cose arrivano in automatico sui nostri canali Telegram e via dicendo. E qui nasce un po' quello che è il titolo della puntata, cioè che poi secondo me è un po' il succo del discorso che stanotte ma veramente sorpreso, perché mentre che parlavo con Carlo ovviamente mi sono reso conto, sono andato così, ho aperto la mail di Runtime Radio così a caso, tanto per, e mi sono reso conto di una cosa che Springer ha fatto un'azione verso di noi. Allora, comunque la puntata si intitola "Non è abbastanza artificiale per il copyright", questo era un po' il senso, perché arrivano queste due mail, una da AdSense, cioè nel senso dal programma di monetizzazione di Springer, che dice che la monetizzazione sul nostro podcast viene bloccata. E vabbè, diciamo che avendo fatto un feed con una puntata dove dentro ci sono delle canzoni e averla messa sotto categoria musica, può essere che ha messo in preallerta tutti quanti gli algoritmi dicendo oh, questi che cazzo stanno a fare con la musica, che vogliono pure, ci vogliono pure guadagnare sopra. Quindi lo posso anche accettare come tipo di discorso. Ma poi arriva subito dopo una mail dicendo che il podcast è stato stornato, eliminato da Spreaker, perché violava ovviamente le regole della piattaforma. E poi ovviamente link qui per leggere le regole della piattaforma, ma chi te se il culo, cioè nel senso, chi si mette a leggere veramente le regole della piattaforma? Però se voi ritenete che insomma non sia giusto il nostro intervento, contattateci qui. Allora, a me però, al di là del fatto che ora li contattiamo e cerchiamo di riattivare la cosa per far capire che noi sosteniamo di essere nel giusto, mettiamo un attimo il discorso da parte e consideriamo un attimo tutto quello che sono le implicazioni che noi parliamo quando, di cui parliamo, di quando ovviamente discutiamo sull'intelligenza artificiale. Allora, ci sono degli aspetti. Uno è l'algoritmo base di tutti questi tool, no? Cioè musica, troppa musica, quindi violazione del copyright. Che in Italia potrebbe anche essere verosimile, perché comunque la CIA interviene su qualsiasi cosa, a meno che tu non l'hai dichiaratamente registrato come Creative Commons, copyleft e via dicendo. Però la CIA, sapete, in Italia interviene a prescindere, anche sul bollino che metti sulle zucchine. Poi c'è anche un problema del fatto che se Suno e Udio avessero mandato nel registro digitale, nella firma digitale che c'è ovviamente su tutti questi algoritmi di ricerca automatica, i nostri brani come copyright di Suno e Udio, ci potrebbe anche stare, potrebbe anche essere. Comunque, quello che volevo dire è che in buona sostanza, alla fine, quando tu fai un'iniziativa come questa, che attira l'attenzione, perché io vi faccio presente, e qui Spreaker stammi a sentire, che noi abbiamo sul feed di Spreaker un programma caricato integrale come MDB Summer Radio, che ci sono tutte le canzoni copyright dell'universo e non se n'è mai accorto nessuno perché lo scaricano in 10. Allora mi è venuto da pensare, vuoi che vuoi un complotto che ti paga e dice: oh ragazzi, sta cosa ha attirato l'attenzione, facci vedere se ci potevo mettere le mani sopra. Perché poi te viene il dubbio. Non mi stupirei se a settembre Spreaker organizzasse grande festival della canzone artificiale. Qui ritorna un po' in ballo quello che diceva Carlo. Parliamone subito, facciamone parlare subito. Perché a me questa cosa che tu mi fai un blocco copyright su una cosa che non c'ha niente di copyright, perlomeno noi supponiamo che non ci sia niente di copyright, è un po' sospetto. Poi è vero che tu l'hai messo sotto categoria musica e che hai mandato il feed sia a Amazon Music che a Spotify, che in automatico anche loro avranno fatto il loro check con i loro algoritmi, hanno mandato l'input magari a Spreaker dicendo: oh, musica, e se matto, oh, sta bando, no, fermi tutti. Ecco, insomma, diciamo che questa cosa, devo dire la verità, non mi aspettavo, devo essere sincero, non mi aspettavo questa attenzione, nel positivo né nel negativo. Ma è che, il che ovviamente non è che mi fa tirare indietro, mi dice, cioè mi fa avere una preoccupazione, anzi lo trovo stimolante, va bene, anzi Spreaker ancora una volta ci ha dato un motivo per litigare, cioè ragazzi bisogna, e noi, cioè io poi mando avanti Walter perché lui è più in grado, diciamo, di avere una comunicazione da questo punto di vista, perché come ho detto a Carlo Sant'Agostino questa notte, è ovvio che poi se so io che comunico con loro, oltre al podcast sulla canzone artificiale, cioè bannano loro tutta Runtime Radio, quindi è meglio che non lo faccio io. Vabbè, comunque intanto salutiamo Mister Zero che sta andando al lavoro, anzi è arrivato al lavoro, quindi finirà di ascoltarci dopo, e dice: non ti fare intervistare, se no ti scoprono e ti mettono al fresco. E giustamente Walter dice: fresco dove vado io? E sì, no, sono stati 2 giorni ragazzi veramente importanti da questo punto di vista. Comunque Walter dice: copyright che di che? Copyright di che? Io ci ho riflettuto su sta cosa, devo dire la verità. Esiste un servizio, si chiama Epidemic Sound, che noi abbiamo utilizzato per un po' di mesi, diciamo come con abbonamento per i podcast, perché c'erano le canzoni ne abbiamo usate anche su Runtime Radio e via dicendo. Però di solito questi diciamo questi servizi servono per dare musica professionale di qualità ai creator che ovviamente hanno bisogno di colonne sonore. Però che succede? Succede che tu paghi un abbonamento e quindi paghi l'utilizzo del brano musicale che vai a scaricare, puoi scaricare tutti i brani che ti pare. E questo io adesso faccio il rapporto a YouTube, attenzione, perché è forse il sistema più immediato. Poi con i podcast, sai, ancora il discorso è un po' più articolato. Però in generale, comunque, se io faccio il vlog del mio viaggio in Uzbekistan, vado su su questo servizio e scarico praticamente Epidemic Sound, scarico praticamente tutte le canzoni dell'Uzbekistan con sonorità annesse. Che succede? Succede che fin quando io pago il servizio, questa è una sorta di ricatto poi alla fine, cioè quindi continuo a pagare l'abbonamento, non ci saranno nessun tipo di problema. Nel momento in cui tu smetti di pagare l'abbonamento perché non ti serve più, allora ti arrivano gli strike sui brani che hai utilizzato. E questa cosa io non so quanto sia regolare, ma purtroppo funziona così. È un problema che hanno riscontrato tantissimi youtuber, ne ha parlato anche Davide Gatti recentemente, ne abbiamo parlato insieme, ma so che ne ha parlato anche in trasmissioni dove è stato invitato, credo che ne abbia parlato anche su Survival Hacking. Quindi in generale questo è un problema abbastanza riconosciuto. Allora ho fatto una riflessione, figurati su uno strumento che tu in realtà utilizzi gratuitamente, che è vero che stai lavorando per loro gratuitamente, perché comunque gli fai addestramento del modello, che non soltanto lo fai lavorare in continuazione in modo che migliori sempre imparando da se stesso da un certo punto di vista, dall'altra comunque i feedback delle persone che vengono ad ascoltare le canzoni, perché dovete considerare che con gli abbonamenti gratuiti, cioè con l'account gratuito, tu non puoi mettere il tuo brano in privato, il tuo brano sarà sempre pubblico, quindi sarà consultabile da tutti, potranno vedere il prompt, potranno vedere, e questo fa parte di una sorta di impatto implicito che tu fai con la piattaforma per poter utilizzare il loro servizio gratuito. E però mi è venuto da pensare che se Epidemic Sound ha già, cioè nel senso comunque registrato, no, il tuo marchio, perché tu quando ovviamente fai la registrazione di Epidemic Sound gli devi dire anche il link del tuo canale YouTube dove vai a mettere la roba, così lui si mette in una sorta di preallerta, poi ci basta, non paga più tra strike a gogo, no? Però la stessa cosa può valere anche per Suno e per Udio, che alla fine ti offrono a maggior ragione un servizio gratuito senza che tu debba pagarlo. Ovviamente se lo paghi avrai dei vantaggi, degli strumenti più potenti, maggiori opzioni sulla lavorazione, tempi più veloci nel rendering e nella generazione del brano e tutta una serie di cose che comunque alla fine sicuramente portano un vantaggio nell'avere ovviamente questo prodotto a pagamento, compreso il numero di prodotti che tu puoi generare quotidianamente, ad esempio, no? E vabbè, e comunque se loro comunque ti fanno utilizzare questo strumento gratuitamente, ci può essere anche il fatto che loro tengano attivo e mettano nel registro digitale che viene utilizzato dagli algoritmi per verificare il copyright delle cose, che quello sia un copyright loro. E sicuramente nei termini di servizio del supporto sicuramente sarà scritto qualcosa del genere. Qui stiamo entrando veramente in un campo dove chi, e qui vedi poi subentra la polemica, chi definisce praticamente tutti questi strumenti di intelligenza artificiale può grabbare indiscriminatamente tutto lo scibile umano fregandosene del copyright. Poi ci sarebbe da dire una cosa sul copyright su Suno e su Udio, che c'è una cosa che fa molto ridere, ma non ve la dico. E però poi dopo, quando si tratta di quello che tirano fuori loro, anche se l'hai fatto tu, non è roba tua. Cioè, questo è il discorso di fondo. Quindi in teoria ci potrebbe anche essere l'ipotesi che noi questa cosa del festival della canzone artificiale non la potremmo neanche fare. E qui ritorniamo al fatto che noi l'abbiamo fatto come una cosa a cazzarella fra di noi. Però poi se tu fai una cosa a cazzarella, l'idea è bella, piace, attira l'attenzione, arriva qualcuno, scriviamoci l'articolo, famo una roba del genere, eccola là che improvvisamente, non si sa come mai, scattano quei meccanismi che prima non sono scattati, e soprattutto non sono scattati in MDB Sam Radio. Insomma, questa è la cosa che va tenuta in considerazione. E non mi ricordo che cos'è che avevo detto, che poi avrei detto di Sumo. Ah sì, del copyright. Chiudo dicendo questa cosa su Suno Audio, cioè anche se reagiscono in maniera diversa. Cioè, se tu vai su Suno, anzi vai su Audio, parliamo di Audio in questo caso, e gli scrivi nel prompt ballad songwriter, Italian songwriter like Fabrizio D'André, diciamo che lui ti dice però non puoi dire come Fabrizio D'André, però poi lui degenera le canzoni like Fabrizio D'André. Ora, magari like Fabrizio D'André no, però io ho fatto delle cose con come si chiamano quelle, mannaggia la miseria, quella band che facevano, che hanno fatto la colonna sonora a un documentario Disney sulla natura, vabbè adesso non mi viene. Comunque, se tu gli dai quegli input, comunque lui ti tira fuori quel tipo di prodotto, cioè comunque molto similar da quel punto di vista. Pure questa è, cioè, la presa per culo. Cioè, tu mi dici no, non lo puoi dire, no, non lo puoi dire, però quattro brani, su quattro brani che ti genera, due brani ti dice errore, violazione dei termini del copyright, non si possono utilizzare nomi propri de band o di artisti, e sugli altri due invece te lo fa e ti scrive proprio like quelli là, insomma, capito? Cioè, è una cosa di... Invece su Suno, da questo punto di vista, sono un po' più serio. Lui proprio te lo stronca proprio, lui non lo puoi dire, non lo puoi dire. Poi, insomma, è chiaro che quando tu vai a fare delle cose che vuoi che si assomiglino quanto più possibile a un certo tipo di brano, comunque ce lo porti, no? Tramite comunque la descrizione del... E anzi, Suno tra l'altro ha messo una cosa incredibile, ce ne siamo accorti proprio questa settimana, che ha messo l'opportunità di uploadare un audio di 15-20 secondi, 30 secondi, adesso non ricordo. Quindi se tu gli vuoi dare le sonorità dell'accompagnamento iniziale, dell'intro, della canzone Le storie di ieri di Fabrizio D'André, tu glielo metti e quindi gli dai quell'input per dare ulteriormente una similitudine alla canzone, quella lì, insomma. Quindi vabbè, diciamo che è un tema abbastanza complesso sul quale ci sapremo aggiornare, aspettiamo che ci risponda Spreaker e vediamo che cosa ci dice, perché dobbiamo capire un po' di cose. Poi sicuramente ci documenteremo nel frattempo. Oh ragazzi, se riusciamo ad avere un po' di visibilità da sto punto di vista, bene, se no avremo visibilità in un altro modo, perché comunque la prossima stagione di Runtime Radio, perlomeno per quanto mi riguarda, avrà un cambio importante di marcia da un certo punto di vista. Per quanto riguarda invece noi, ragazzi, vi dico che questa sera alle ore 22:30 c'è l'ultimo episodio di Runtime by Night. Se volete partecipare, fatemelo sapere, che vi butto nel calderone. Ci saranno Davide Gatti probabilmente, Carlo Sant'Agostino, Leo Varghion, io, Marco Gualdi, Francesco, insomma cercheremo di essere un po' più persone e salutarci un po' per darci il saluto per le buone vacanze. Per il resto, insomma, tenetevi aggiornati, rimanete collegati con Runtime Radio, con Runtime Radio su Telegram, o dirette a Runtime Radio sempre su Telegram, per sapere se ovviamente il feed verrà ripristinato e poter riascoltare le canzoni. Nel mentre votate, votate, votate, perché chiaramente il sondaggio fino a martedì sarà attivo. Grazie a tutti per esserci stati, spero insomma di aver trattato un argomento interessante. Se vi va, dato che comunque, a parte questa puntata qui che era concentrata su un tema, nelle prossime puntate io tornerò a parlare di mini argomenti durante i vari segmenti della trasmissione. Se avete dei temi che volete che io tratti, o che siete curiosi di sapere come la penso, fatemelo sapere, mi potete contattare tranquillamente su Telegram, sapete chi sono, sapete dove trovarmi, basta che non mi venite a bussare sotto casa, se non con i piedi ovviamente, portando da mangiare. Ciao, buon inizio di fine settimana a tutti, e ci vediamo la prossima settimana, ma soprattutto ci ascoltiamo questa sera, ma soprattutto mercoledì 19 ore 21, runtimeradio.it, semifinale 2 del Festival della Canzone Artificiale 2024. Ciao! If I were a NASCAR man going round and round, yeah, you know I'd be number three. If I were the best damn football in the South, I'd be the SEC. And if I were a Velcro stitched up stars and stripes, you can bet I'd be flying proud. Pressed on the chest of America's best, putting bad dudes.